Il cacciatore di libri. La passione per il giallo. Ben ritrovati da Alessandra Tedesco a questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, edizione di Capodanno dedicata, come avete sentito dalla nostra sigla, ai gialli. E sì, perché gli italiani sembrano avere veramente una passione per il giallo. Leggono poco, pensate che solo 4 italiani su 10 ha comprato nell'ultimo mese un libro, poi di questi ancor meno ne hanno letto almeno più di uno al mese. In qualunque caso, il giallo è uno dei generi veramente più graditi. Eppure in questo campo bisogna fare un po' di ordine. Sentiamo parlare di giallo, di noir, di thriller, ma insomma esistono delle differenze fra questi tre generi o si tratta solo di una differenza lessicale? Ci siamo fatti aiutare in questa spiegazione da Paolo Roversi, che è uno scrittore noir ed è direttore di Milano Nera, un mensile dedicato al genere ed è distribuito nelle librerie di tutta Italia. Lo trovate anche su internet www.milanonera.com, invece per tutti gli eventi che vengono organizzati www.mne20.com. E allora a questo punto la parola va a Paolo Roversi. Il giallo, diciamo, per fare un po' ordine, è quello classico all'Agatha Christie, quello in cui c'è un investigatore che indaga e alla fine, nelle ultime pagine, si mette in prigione il cattivo. Quindi questo è quello classico Agatha Christie Conan Doyle. Il noir, una definizione che a me piace molto, è la storia di Cappuccetto Rosso raccontata dal lupo cattivo. Significa che nel noir si può il cattivo, il malintenzionato, l'uomo nero, possiamo trovarlo anche nella prima pagina. Non è più importante così tanto scoprirlo alla fine, lo possiamo anche scoprire subito, ma è l'ambientazione che è importante, è lo spaccato sociale. Insomma, diciamo che il noir è appunto il lupo cattivo che racconta se stesso, quindi noi vogliamo indagare il lato scuro. Anche il noir poi ha diverse declinazioni, perché c'è il noir mediterraneo, c'è il noir di scuola americana. Io prediligo il noir di scuola americano alla Roy o alla Don Winslow, per esempio, che sono spaccati di storia americana raccontati attraverso la fiction, no? Quindi il noir è un modo di indagare il presente. Il thriller è Dan Brown, è quei libri direi di scuola americana in cui c'è suspense che ci tengono legati fino all'ultima pagina con continui colpi di scena. Gli italiani, sappiamo, leggono poco, però quei pochi che leggono spesso prediligono proprio i noir e i gialli. Insomma, possiamo parlare di passione noir. Secondo te perché piacciono così tanto? Per due motivi. Uno è mettersi nei panni dell'investigatore ed essere noi quelli che scoprono il mistero. E l'altro è anche perché la cronaca nera ci attira morbosamente. Se pensiamo ai casi di Cogne, di Garlasco, insomma, quelli che accadono specialmente in provincia, perché la morbosità è ancora più in provincia. E uno dei massimi esponenti del noir all'italiana è Massimo Carlotto. Il suo ultimo romanzo si intitola L'amore del bandito ed è pubblicato da E.O. Dopo 7 anni, Carlotto ha fatto tornare il suo personaggio seriale, l'alligatore, ossia l'investigatore privato senza licenza, Marco Buratti. Un alligatore che però con il tempo è un po' cambiato, come ci spiega lo stesso Massimo Carlotto. Beh, sono passati 7 anni e per me i personaggi sono sempre una grande metafora di quello che è il paese, di quello che è il territorio, di quella che è la storia che viene raccontata. È passato il tempo, ma anche è maturato in maniera molto, molto diversa rispetto a un tempo. È meno investigatore, molto più uomo all'interno di un luogo, di un tempo. L'alligatore è un investigatore privato sui generis, non ama le armi, insomma, ha anche un passato particolare, nello specifico è stato vittima di un errore giudiziario. In questo molti ci vedono un tuo alter ego, è così? Sì, ma sbagliano, nel senso che l'unica cosa che io condivido con il mio personaggio è l'amore per il blues e per il Calvados. In questo caso si è partito da un fatto vero, il furto di droga dell'Istituto di Medicina Legale di Padova, ma in genere come ti nascono le trame? Prendi sempre spunto da un fatto reale? Sempre, sempre. E adesso c'è questo fenomeno che è molto importante, che sono queste comunità di lettori che vivono intorno agli autori e i loro romanzi e il loro lavoro, che sono diventati dei grandi suggeritori e fornitori di informazioni rispetto alle storie. Per cui io ascolto molto e poi mi interessa scegliere storie che abbiano un senso generale per questo paese, che raccontino veramente le trasformazioni reali della criminalità. e quindi parto sempre da fatti realmente caduti, e in questo caso per esempio parto da questo furto assolutamente misterioso per ricostruire quella che è la mappa dell'infiltrazione mafiosa soprattutto da parte di culture criminali straniere nel mio territorio, cioè il nord-est. Il territorio infatti che esamini è sempre quello, è sempre il nord-est, la provincia, la criminalità del nord-est. Sì, qualche volta sconfino in Sardegna, però insomma di solito è sempre il nord-est. Perché ormai c'è questo patto, che non è così tanto tacito, tra autori, che ognuno ormai scrive del territorio dove vive, dove lavora. Io mi divido tra nord-est e Sardegna, per cui quelli sono i miei territori d'elezione. Il noir però funziona se è legato nello specifico ad un territorio, penso per esempio ai noir di Bologna e così via. Sì, perché proprio è diventato un elemento proprio specifico del romanzo di genere italiano, cioè che il territorio è diventato un personaggio, per questo è così importante nella narrazione. Ma ormai il noir si sta differenziando perché in qualche modo copre il grande vuoto lasciato dal giornalismo d'inchiesta, che non si occupa più di criminalità e quindi sono i noiristi a parlare di criminalità. E a proposito di noir, che diventa quasi giornalismo d'inchiesta, come avete sentito nell'intervista a Massimo Carlotto, c'è un giallista che ha deciso di creare una storia inventata intorno alla strage di Bologna del 2 agosto del 1980. Lui è Patrick Fogli. Il libro è Il tempo infranto, pubblicato da APM, un libro piuttosto corposo, sono 655 pagine. Protagonista un uomo sui 35 anni, Francesco, convinto che suo padre sia morto nella strage di Bologna. La vita di Francesco cambia quando la banca dove lavora viene rapinata e un uomo ucciso. Da qui inizia un percorso a ritroso fra i misteri dell'Italia negli anni 70 e i primi anni 80. In questo romanzo dunque la cronaca entra prepotentemente nella storia e si intreccia con gli spunti di fantasia. Ma perché un romanzo proprio sulla strage di Bologna? Ecco che cosa ci ha risposto l'autore, che fra l'altro è uno dei noiristi più noti in Italia. Sostanzialmente per due motivi. Parlare della strage di Bologna perché del terrorismo italiano, o soprattutto del terrorismo stragista italiano, non si parla quasi, è una vicenda accantonata, dimenticata, che la mia generazione, ho 35 anni, o quella successiva alla mia, non ha la più pallida idea di cosa sia in nessun modo. E fare un romanzo intanto perché sono uno scrittore, quindi scrivo romanzi, quindi è la prima cosa che mi è venuta in mente, e poi perché è impossibile fare un saggio, oppure è possibile fare un saggio a patto di riuscire a camminare sul bordo di un filo molto sottile, quindi di faticare a prendere posizione significa faticare anche a raccontare, e sono quelle cose che si possono fare quando ci sono delle memorie consolidate a cui attingere. In Italia la memoria consolidata sullo stragismo non esiste. La storia di Francesco si svolge appunto sullo sfondo della strage di Bologna, ma è una storia inventata. La storia di Francesco è una storia inventata, è uno dei due piani narrativi del romanzo, e la storia al presente e la storia al passato, quindi la storia al presente di Francesco è totalmente inventata. È inventata cercando di fare in modo che fosse il più possibile verosimile, è una cosa che cerco sempre di fare quando scrivo. In realtà Francesco, secondo me, è un ragazzo come tanti, potrebbe essere veramente il figlio di una vittima, potrebbe essere veramente un ragazzo di 35 anni che ha cercato di ricostruire qualche cosa, magari ha cercato anche di dimenticare, perché poi Francesco stesso ammette di non sapere quasi niente di quello che è capitato. E a proposito di noir ambientati a Bologna e di giallisti bolognesi, che sono tanti per la verità, vi segnalo anche che in libreria l'ultimo romanzo di Grazia Verasani, Di tutti e di nessuno. Una nuova indagine di Giorgia Cantini, l'investigatrice privata diventata famosa in Quo Vadis Baby, stavolta indaga sull'omicidio di una donna eccentrica che aveva conosciuto anni prima, ma nello stesso tempo è sulle tracce di una diciottenne inquieta che ha abbandonato il liceo e nasconde un segreto. Ecco l'incipit. L'ultima sera con Nicola è cominciata al binario 3 della stazione di Bologna. Lui tornava da Firenze, dove era andato a trovare un amico che non vedeva dai tempi recenti dell'università, e io mi ero proposta di raggiungerlo. Bologna è una città di transito, da sud a nord e viceversa, e la sua stazione è sempre aperta. I furti ai viaggiatori sono all'ordine del giorno e nella sala d'attesa di notte dormono immigrati e senza tetto che impregnano l'aria di un odore di sudore stantio. È una vecchia stazione, senza passerelle, assi o pedane su cui trascinare i bagagli, e non parliamo poi degli accessi per i disabili. L'unico oggetto di valore è l'orologio, che segna ancora l'ora della strage del 2 agosto 1980. Ed è un noir anche l'ultimo piccolo romanzo dello scrittore cileno Luis Sepúlveda. Si intitola L'ombra di quel che eravamo, pubblicato in Italia da Guanda con la traduzione di Ilide Carmignani. È la storia di tre uomini, tornati in Cile dopo un lungo esilio, l'esilio causato naturalmente dal colpo di stato del 73 di Pinochet, e che si danno appuntamento per una missione segreta. In questo romanzo Sepúlveda tratta temi a lui cari, l'esilio e il ritorno, utilizzando, come dicevamo, lo schema del noir. Ma perché proprio la scelta di questa struttura narrativa? Sentiamo che cosa ci ha risposto Sepúlveda. Io ho sempre pensato che i generi letterari non sono così rigidi. No? E io mi sento molto rappresentante di un genere che si chiama la novella negra latinoamericana, che è un mestizzaggio della letteratura di viaggio, memoristica, il giallo, avventura, eccetera, no? Che ha generato una nuova forma di espressione letteraria. E mi sento comodo quando scrivo in una certa maniera incerto in questa nuova forma di scrittura. I tre personaggi decidono di rincontrarsi dopo aver passato anni in esilio, ognuno in vari paesi. Una delle sensazioni che provano è quella di estraniamento. Ritornano nel proprio paese, lei scrive per esempio lì dove c'era un ristorante ora ci sono i cinesi, un sexy shop e così via. Che cosa prova effettivamente una persona che è stata in esilio quando torna nel suo paese? Però lo primo che scopre è che dell'esilio non si torna più, no? E che quando si è andato in via, questo che rimane è il bello, carino, amoroso paese della memoria, no? E che quando si torna alla realtà dopo di anni di esilio al paese di origine, si compara con questo paese della memoria, no? E è pienamente diverso, è un po' frustrante, un po' brutto di scoprire che tutto questo che era bello nel paese della memoria, che era inamovibile nel paese della memoria, oggi è cambiato perché la vita cambia, no? E è particolarmente difficile questa un'altra forma d'esilio, un prolungamento dell'esilio nello stesso paese. C'è una data ricorrente in questo romanzo e ovviamente anche nella sua vita, l'11 settembre, ma non del 2001 come tutti noi magari pensiamo, ma quello del 73, il colpo di stato di Pinochet. Che cosa ha rappresentato per lei quella data e anche poi inevitabilmente nei personaggi che lei descrive? No, sempre per me è stato, da tutto punto di vista, in una data molto importante, traumatica, no? È stato un giro radicale, violentissimo della vita, dell'esistenza, no? Fino al 10 di settembre del 1973 io, come tanti altri cileni, avevamo un progetto di vita, un progetto culturale, un progetto per l'esistenza, un progetto per sviluppare una vita normale. E a partire del giorno prossimo, dell'11 settembre, tutto questo è cambiato, si è trasformato per tanti in un incubo, per altri si è trasformato nella necessità di salvaguardare la vita, no? Andare all'esilio, oltre abbiamo andato in carcere. Ha significato un po' la fine di una giovinezza, no? L'11 settembre 73 io ero un giovane di 22 anni, e ha cominciato un'altra forma di vivere, no? Marcata per l'esilio, no? Prima marcata per la carcere, la mancanza di libertà, la paura, e la clandestinità dopo l'esilio. Abbiamo perso qualcosa importantissima subitamente della nostra vita, abbiamo perso qualcosa che non si recupera. E questo era Luis Sepúlveda in libreria con L'ombra di quel che eravamo. Metropoli è invece il primo romanzo dell'americano Jonathan Raab che viene tradotto in italiano, in questo caso da Cairo Editore. Il romanzo è ambientato nella Berlino del 1927, una città corrotta, nella quale il commissario capo Nikolai Hofner deve indagare sulla morte di un uomo. Il suo corpo è stato trovato nella casa di produzione cinematografica che cerca di rubare alle major di Hollywood il primato mondiale. Sembra un suicidio, ma Hofner non è convinto e così indaga. Un giallo che ha a che fare dunque con la storia del cinema. E allora sentiamo un brano tratto da Metropoli. Hofner non arrivò mai in Potsdamer Platz. Se fosse stato consapevole del motivo per cui la UFA meritava tutto il suo disprezzo, gli avevano mandato Georg. Avevano reso inevitabile quella mattinata. Avevano riportato indietro Sasha dal mondo dei morti. Forse si sarebbe comportato in modo diverso. Del resto, era pericoloso permettere che quisquigli del genere influenzassero un caso. Però non era consapevole. Lui non si lasciava mai turbare dalle motivazioni private. Soltanto i criminali meritavano quel genere di scavo in profondità. I suoi peccati erano di una categoria diversa e quindi liberi da origini più intime. Per lui l'appuntamento saltato era semplicemente una prova di forza. Gli avevano detto a che ora andare e lui aveva risposto di no. Gialli, noir, thriller. Fra i thriller all'americana c'è uno scritto da un italiano e che è stato un vero e proprio caso editoriale. Si intitola Il suggeritore, dell'opera prima di Donato Carrisi, pubblicata da Longanesi. 180.000 copie vendute. Così Carrisi, che fra l'altro è un criminologo, parla del suo romanzo e prova a spiegare le ragioni di tanto successo. L'argomento è la fascinazione del male. Una cosa che ho sperimentato di persona nel periodo della mia tesi di laurea, quando ho affrontato il primo caso di serial killer, quello di Luigi Chiatti. C'è una contaminazione che parte appunto dal soggetto criminale e che ci riguarda tutti. È come se il racconto poi invocasse, chiamasse il nostro lato oscuro. E il nostro lato oscuro risponde, c'è questa curiosità morbosa. Quella che ci spinge ad esempio a rallentare in autostrada quando c'è un incidente stradale o a guardare determinati programmi che trattano di fatti di cronaca. In fondo è più facile ricordarsi i nomi dei mostri, degli assassini, che quelli delle vittime. Quelli sfuggono, proprio perché i mostri fanno appello alla nostra ombra. Da dove parte la costruzione di un giallo? Dal personaggio, dallo scenario, dalle vittime, dal protagonista buono, da cosa? Dal cattivo sicuramente, perché il personaggio più affascinante è sempre quello del cattivo. E il cattivo in parte bisogna trovarlo in se stessi. Penso che gli scrittori di thriller abbiano questo vantaggio. Riescono ad esorcizzare il proprio lato oscuro, ci fanno i conti prima. E poi bisogna dare la possibilità al lettore di riflettersi nelle pagine, di trovare anche una parte di sé in un certo senso. Poi tecnicamente si parte scrivendo un thriller dalla struttura, che è una cosa essenziale, perché bisogna fornire un ritmo alle pagine. Ogni volta che una pagina si spegne davanti agli occhi del lettore e si accende quella successiva, il ritmo deve rimanere intatto e condurlo fino alla fine. Molti thriller di oggi parlano del lato scientifico, penso anche ai telefilm CSI e così via. Prima c'era il giallo alla vecchia maniera, dove c'era colui che indagava, che doveva appunto carpire i piccoli segnali. Il giallo è definitivamente cambiato? Giallo e thriller si distinguono essenzialmente per il fatto che il giallo comunque continua a conservare una dimensione provinciale. Buoni e cattivi si conoscono, diciamo che fanno una parte del percorso di vita insieme, l'evento criminale poi arriva ad un certo punto a spezzare questo cammino. Il thriller invece è un linguaggio più universale. È sicuramente un racconto più ampio che fa appello a sentimenti più profondi, più radicati. E questo era Donato Carrisi, autore di Il suggeritore, pubblicato da Longanesi. Ma è il re del thriller, almeno del thriller storico, come diceva anche Paolo Roversi di Milano Nera all'inizio di questa puntata, e senza dubbio l'americano Dan Brown. È sempre nei primi posti delle classifiche di vendita l'ultimo arrivato, Il simbolo perduto, uscito in Italia per Mondadori il 23 ottobre, in meno di due mesi ha quasi toccato 1 milione di copie vendute e naturalmente a Natale ci sarà stato un altro boom. Del resto lo scrittore americano è abituato ai grandi numeri. Fino ad ora i suoi libri hanno venduto complessivamente nel mondo 168 milioni di copie. Ma veniamo al simbolo perduto. Protagonista è per la terza volta dopo Il Codice da Vinci e Angeli e Demoni Robert Lanton, docente di simbologia religiosa all'Università di Harvard. Stavolta è alle prese con un mistero che riguarda la massoneria, quella americana però, niente a che vedere insomma con la P2 di cui noi italiani ci ricordiamo. Dopo Roma e Parigi, Dan Brown ha deciso di ambientare il romanzo a Washington. Il perché l'ha spiegato lui stesso in una conferenza stampa a Milano, la prima davanti a giornalisti italiani. Washington, D.C., although it's a much younger city than Rome, has cathedrals and crypts. Washington D.C. è una città decisamente più giovane di Roma, ma è piena di cattedrali, cripte, gallerie sotterranee. È una città carica di misteri architettonici, come Roma e Parigi. È interessante anche perché quando Washington fu fondata, fu definita la Nuova Roma e il fiume Potomac che la traversa era stato chiamato scherzosamente Tevere. Washington è la Nuova Roma. So Washington is the new Rome, meaning that all three of my books Tutti e tre i miei libri principali, Angeli e Demoni, è ambientato a Roma. Il Codice da Vinci parla di Leonardo e il nuovo libro è sulla nuova Roma. Tutti si riferiscono in qualche modo all'Italia. Sembra dunque che ci sia una storia d'amore, in qualche modo. Dan Brown, come tanti altri scrittori, ha delle piccole manie nel momento in cui scrive. Allora sentiamo come ci racconta il suo modo di vivere il lavoro di scrittore. I do get up at 4 o'clock in the morning. It's a little bit crazy, but that's when I work best. I will write for 6-7-8 hours. Mi alzo alle 4 del mattino, è un po' da pazzi, ma è il momento in cui lavoro meglio. Lavoro poi per 6, 7 o 8 ore al giorno e vi posso garantire che per ogni singola pagina del simbolo perduto ce ne sono state 10 che ho gettato nel cestino. Yes, I have a staff and that I have an assistant who will travel and do research for me. Ho uno staff, un assistente che viaggia e fa ricerche per me. Mia moglie è una ricercatrice e assistente eccezionale. Con lei posso parlare spesso di arte, di architettura. Riesce a trovare le informazioni, per esempio, su Leonardo da Vinci. E poi ne discutiamo. And bring it back and discuss it. E questo era Dan Brown, ora in libreria con Il simbolo perduto, pubblicato in Italia da Mondadori, con la traduzione di un pool di 5 persone: Anna Maria Biavasco, Valentina Guani, Nicoletta Lamberti, Anna Maria Raffo e Roberta Scarabelli. Per chi invece vuole fare le pulci a Dan Brown, c'è il libro Dietro il simbolo perduto, guida non autorizzata a fatti, personaggi e misteri del romanzo di Dan Brown. È scritto da Tim Collins, pubblicato in Italia da Edizioni L'età dell'Acquario. Vorrei a questo punto finire questo speciale dedicato al noir, al giallo e ai thriller con un finto giallo. Almeno così lo definisce il suo autore, Andrei Longo. Si intitola Chi ha ucciso Sara ed è pubblicato da Adelphi. Anche questa volta Longo ci porta a Napoli, nella sua Napoli. Tutto gira intorno all'uccisione di una ragazza, Sara appunto. Il suo cadavere viene trovato nel portone di un palazzo a Posillipo, quartiere bene della città. La scoperta viene fatta da un giovane poliziotto che è la voce narrante del romanzo. Intorno a lui una serie di personaggi che sono ben caratterizzati dall'autore. C'è il commissario Burbero che beve tè da una bottiglia di whisky, il collega Cipriani di Brescia che è ligio alle regole e ancora non capisce come funzionano le cose a Napoli. Ma ci sono anche gli strani abitanti del palazzo dove è avvenuto l'omicidio, l'avvocato, il professore e l'architetto. La vita del giovane poliziotto verrà dunque sconvolta dalla scoperta di questo cadavere. Il perché ce lo spiega lo stesso Andrei Longo. Prima di tutto perché il primo cadavere che vede giovane, diciamo, avrà visto altri cadaveri, ma questo è il cadavere di una sua coetanea, di una ragazza. Lui è abituato a fare il lavoro d'ufficio e viene particolarmente colpito da questo corpo senza vita, nel quale lui rivede qualcosa di se stesso, probabilmente una coetanea, una parte di se stesso. Quindi ne rimane talmente influenzato da cominciare ad appassionarsi a questa indagine, vuole trovare a tutti i costi il colpevole. E poi via via, strada facendo, scopre anche delle cose di se stesso. Come negli altri suoi scritti, Napoli è spesso protagonista dei suoi romanzi o dei suoi racconti, a partire dal linguaggio. Non è che ci sia solo il dialetto, ma proprio una costruzione grammaticale che è ispirata al napoletano. Perché? Sia in 10 che in questo libro i protagonisti delle storie parlano in prima persona. In questo caso è Acanfora, un poliziotto non di estrema periferia, ma comunque di una periferia più o meno degradata. Parlando in prima persona, quasi per forza di cose va usata una certa lingua, i suoi pensieri vengono trasmessi attraverso l'espressione del suo linguaggio e farlo parlare in italiano non sarebbe stato sicuramente coerente né efficace né vero, e perciò ho scelto anche in questo caso di dargli una parlata che sia corrispondente al suo luogo di origine. E questo era Andrei Longo, autore di Chi ha ucciso Sara, pubblicato da Adelphi. Ed è tutto anche per questo speciale dedicato alla passione degli italiani per il giallo, il noir e il thriller. Da Alessandra Tedesco un buon 2010, magari in compagnia di un buon giallo.